cosa arrestò subitamente il suo ingresso. Il lobo temporale destro della cavità sferica del suo cranio venne a contatto con un solido angolo di legno, dove, un'infinitesima ma sensibile frazione di un secondo più tardi, una dolorosa sensazione si localizzò in conseguenza di sensazioni antecedenti, trasmesse e registrate. Descrivere i cambiamenti apportati alla disposizione dei singoli mobili. Un sofà ricoperto di felpa color susina era stato traslocato da dove era, di fronte alla porta, fino all'angolo del caminetto, vicino alla bandiera britannica arrotolata con cura, alterazione che egli aveva frequentemente avuto in animo di effettuare. Il tavolo a intarsio, con il piano di maiolica a scacchi azzurri e bianchi, era stato collocato di fronte alla porta nel posto lasciato vacante dal sofà di felpa color susina. La credenza di noce, un angolo sporgente della quale aveva momentaneamente arrestato il suo ingresso, era stata rimossa dalla sua posizione vicino alla porta fino a una più vantaggiosa, ma più pericolosa, posizione di fronte alla porta. Due sedie erano state rimosse da destra a sinistra del caminetto e portate nella posizione originariamente occupata dal tavolo a intarsio in maiolica a scacchi azzurri e bianchi. Descriverle. Una poltrona bassa imbottita, con tozzi braccioli tesi in avanti e con inclinazione dello schienale all'indietro, che, spinta indietro di rimbalzo, aveva allora rivoltato la frangia irregolare in un tappetino rettangolare e mostrava adesso, sul sedile ampiamente imbottito, uno scoloramento centralizzato che diminuiva decentrandosi. L'altra, un'esile sedia dai piedi volti in fuori, di canne lucide e ricurve, situata proprio di fronte all'altra, con l'intelaiatura dalla cima al sedile e dal sedile alla base verniciata di marrone scuro, mentre il sedile era un cerchio lucente di giunco bianco intrecciato. Quali significazioni erano connesse a queste due sedie? Significazioni di similitudine, positura, simbolismo, prove circostanziali, supermanenza testimoniale. Che cosa occupava la posizione originariamente occupata dalla credenza? Un piano verticale, Cadby, con tastiera scoperta, con sulla cassa chiusa un paio di lunghi guanti gialli da signora e un portacenere verde smeraldo contenente quattro fiammiferi usati, una sigaretta in parte usata e due mozziconi macchiati di sigarette, con sul leggio la musica in chiave di sol naturale per voce piano di D'amor la vecchia dolce canzon, parole di G. Clifton Bingham, musica di J. L. Molloy, repertorio della signora Antoinette Sterling, aperta all'ultima pagina con le didascalie finali ad libitum forte, pedale, animato, sostenuto, pedale, ritirando, chiusa. Con quali sensazioni contemplò Blum in rotazione questi oggetti? Con sforzo, alzando un candeliere. Con dolore, toccandosi alla tempia destra una contusione tumescente. Con attenzione, mettendo a fuoco lo sguardo su qualcosa di grosso, opaco, passivo e di esile, lucente, attivo. Con sollecitudine, chinandosi a tirar giù la frangia rivoltata del tappetino. Con divertimento, ricordando il rapporto dei colori del dottor Malachi Mulligan, contenente una certa gradazione di verde, con piacere, ripetendo le parole e l'atto precedente e percependo attraverso i vari canali della sensibilità interna la conseguente e concomitante, tiepida, piacevole diffusione d'uno scolorimento graduale. I suoi ulteriori movimenti? Da una scatola aperta sul tavolo di maiolica, estrasse un piccolo cono nero, un pollice d'altezza, lo mise ritto sulla base circolare sopra un piattino di stagno, mise il candeliere sull'angolo destro del caminetto, tirò fuori dal panciotto la pagina piegata di un prospetto, illustrato, intitolato Agendath Netaim, spiegò la medesima, la esaminò superficialmente, la arrotolò in un esile cilindro, le dette fuoco alla fiamma della candela. La accostò una volta accesa all'apice del cono finché quest'ultimo raggiunse uno stadio di incandescenza rutilante. Collocò il cilindro nella vaschetta del candeliere disponendone la parte non consumata in modo tale da facilitare la combustione totale. Che cosa seguì a questa operazione? La cima del cratere del tronco di cono del minuscolo vulcano emise un fumo verticale e serpentino aulente di incenso aromatico orientale. Quali oggetti omotetici, oltre al candeliere, erano sulla mensola del caminetto? Un orologio di marmo striato del Connemara, fermo alle ore 4:46 antimeridiane del 21 marzo 1896, dono di nozze di Matthew Dillon. Un albero nano dall'arborescenza glaciale sotto una campana di vetro, dono di nozze di Luke e Caroline Doyle. Una civetta imbalsamata, dono di nozze dell'assessore John Hooper. Quali mutui scambi di sguardi ebbero luogo fra questi tre oggetti e Bloom? Nello specchio a cornice dorata sul caminetto, il retro non decorato dell'albero nano guardava il retro eretto della civetta imbalsamata. Davanti allo specchio, il regalo di nozze dell'assessore John Hooper, con un limpido, malinconico, saggio, lustro, immobile, compassionevole sguardo, contemplava Bloom, mentre Bloom, con un oscuro, tranquillo, profondo, immobile, compassionevole sguardo, contemplava il regalo di nozze di Luke e Caroline Doyle. Quale immagine composita, asimmetrica nello specchio, attrasse poi la sua attenzione? L'immagine di un uomo solitario, ipso relativo, mutevole, alio relativo. Perché solitario, ipso relativo? Non aveva fratelli né sorelle, pure suo padre era figlio di suo nonno. Perché mutevole, alio relativo? Dall'infanzia alla maturità, egli era somigliato alla sua procreatrice materna. Dalla maturità alla senilità, sarebbe sempre più assomigliato al suo procreatore paterno. Quale ultima impressione visiva fu a lui comunicata dallo specchio? Il riflesso ottico di parecchi volumi invertiti, impropriamente disposti e in ordine non alfabetico, coi titoli scintillanti sui due scaffali di fronte. Fare l'inventario di questi libri. Guida Tom delle Poste Telegrafi di Dublino, 1886. Dennis Florence McCarthy, Opere poetiche, segnalibro foglia di faggio color rame, a pagina 5. Shakespeare, opere, marocchino rosso scuro, fregi in oro. Il calcolatore insostituibile, tela marrone. La storia segreta della corte di Carlo II, tela rossa, con fregi. La guida del bimbo, tela azzurra. Le bellezze di Killarney, fascetta. Quando eravamo ragazzi di William O'Brien, MP, tela verde, leggermente sbiadita, busta segnalibro a pagina 217. Pensieri scelti di Spinoza, pelle marrone. La storia dei cieli di Sir Robert Ball, tela azzurra. Ellis, tre viaggi al Madagascar, tela marrone, titolo obliterato. Il carteggio Stark Munro di A. Conan Doyle. Proprietà della biblioteca pubblica della città di Dublino, 106 Capel Street, preso in prestito il 21 maggio, vigilia di Pentecoste 1904, da restituire il 4 giugno 1904. Ritardo di 13 giorni. Tela nera con etichetta bianca di classificazione. Viaggi in Cina di Viator, ricoperto di carta marrone, titolo in inchiostro rosso. Filosofia del Talmud, in brossura. Lockhart, vita di Napoleone, copertina mancante, note marginali che minimizzavano le vittorie ed esageravano le disfatte del protagonista. Sol und Abend di Gustav Freitag, cartone nero, caratteri gotici, tagliandino premio delle sigarette come segnalibro, a pagina 24. Hozier, storia della guerra russo-turca, tela marrone, due volumi, con etichetta ingommata, biblioteca della guarnigione. Governor's Parade, Gibilterra, sul verso della copertina. Lawrence Bloomfield in Irlanda, di William Ellingham, seconda edizione, tela verde, disegno di trifoglio dorato, nome del precedente proprietario sul recto della guardia grattato via. Manuale di astronomia, legatura in pelle marrone, scollata, cinque tavole, in caratteri romani antichi piccoli, note dell'autore in corpo 6 a piedi pagina, Rubricazione a margine, didascalia in caratteri pica piccoli. La vita segreta di Cristo, cartone nero. Nella scia del sole, tela gialla, frontespizio mancante, titolo ripetuto in testa a ogni pagina. La forza fisica e come la si ottiene, di Eugen Sandow, tela rossa. Brevi eppur semplici elementi di geometria, scritto in francese da F. Ignaz Bardis e reso in inglese da John Harris D. D. Londra per i tipi di R. Necklop alla Bishop's Head MDCCXI, con un'epistola dedicatoria al commendevole amico Charles Fox, Esquire, membro del Parlamento per il borgo di Southwark, e recante una nota manoscritta inchiostro sulla guardia, attestante essere il libro proprietà di Michael Gallagher, datata di 10 di maggio 1882, con preghiera per chi lo trovasse, qualora il libro dovesse disperdersi o smarrirsi, di restituirlo a Michael Gallagher, falegname, Dufferigate, Enniscorthy, contea di Wicklow, il più bel paese del mondo. Quali riflessioni assorbivano il suo spirito durante il processo di reversione dei volumi invertiti? La necessità dell'ordine, un posto per tutto e tutto al suo posto. Lo scarso apprezzamento della letteratura da parte delle donne, l'incongruenza di una mela incuneata in un bicchiere e di un ombrello infilato nella buca del cesso, l'imprudenza di nascondere un qualsiasi documento segreto dietro, sotto o tra le pagine di un libro. Qual era il volume di maggiori dimensioni? La storia della guerra russo-turca di Auger. Quali dati tra gli altri conteneva il secondo volume dell'opera in questione? Il nome d'una battaglia decisiva, dimenticato, frequentemente ricordato da un decisivo ufficiale, il maggior Brian Cooper Tweedy, ricordato. Perché in primo e in secondo luogo non consultò l'opera in questione? In primo luogo per un esercizio di mnemotecnica. In secondo luogo perché, dopo un intervallo di amnesia, mentre sedeva al tavolo di centro, sulle mosse di consultare l'opera in questione, si ricordò per via di mnemotecnica il nome dell'operazione militare, Plevna. Che cosa gli diede consolazione in quella positura sedentaria? Il candore, la nudità, la posa, la tranquillità, la giovinezza, la grazia, il sesso, la saggezza di una statua eritta al centro della tavola. Un'immagine di Narciso acquistata a un'asta da P. Avren 9 Bachelor's Walk. Che cosa gli diede irritazione in quella positura sedentaria? La pressione inibitrice del colletto, numero 17, e del panciotto, 5 bottoni, due effetti di vestiario superflui nell'abbigliamento dei maschi maturi e inelastici alle modificazioni del volume per espansione. Come fu alleviata l'irritazione? Si levò il colletto con annessa cravatta nera e bottone mobile, spostandolo dal collo fino al lato sinistro del tavolo. Sbottonò successivamente dal basso in alto panciotto, calzoni, camicia e maglia lungo una linea mediana di peli irregolari, neri e crespi, convergenti triangolarmente dal bacino pelvico sulla circonferenza addominale e la fossetta ombelicale lungo la linea mediana delle articolazioni fino all'intersezione della sesta vertebra toracica e di là estendentisi da ambo i lati ad angolo retto e terminanti in cerchi descritti attorno a due punti equidistanti a destra e a sinistra sulle sommità delle prominenze mammarie. Liberò successivamente ciascuno dei 6-1 bottoni delle bretelle disposte a coppie, di cui una incompleta. Quali azioni involontarie seguirono? Compresse tra due dita la carne circumiacente a una cicatrice nella regione infracostale sinistra, sotto il diaframma, risultante da una puntura inflitta 2 settimane e 3 giorni prima, 23 maggio 1904, da un'ape. Grattò approssimativamente con la mano destra, per quanto insensibile al prurito, vari punti e superfici della sua pelle parzialmente esposta, totalmente abluta. Inserì la mano sinistra nella tasca inferiore sinistra del panciotto ed estrasse e rimise a posto una moneta d'argento, uno scellino, messavi, presumibilmente, in occasione, 17 ottobre 1903, dell'inumazione di Mrs. Emily Sanico di Sydney Parade. Compilare il bilancio del 16 giugno 1904. Dare un rognone di maiale, 3 pence, una copia del Freeman's Journal, 1 penny, un bagno e mancia, uno scellino, 6 pence, tram, 1 penny, uno in memoria di Patrick Dignam, 5 scellini, 2 panini Bambury, 1 penny, una colazione, 7 pence, un rinnovo abbonamento alla circolante, uno scellino, un pacco carta da lettere e buste, 2 pence, un pranzo e mancia, 2 scellini, un vaglio e francobollo, 2 scellini e 8 pence, tram, 1 penny, uno zampetto di maiale, 4 pence, uno zampino di pecora, 3 pence, una tavoletta di cioccolata fry, 1 scellino, un pan dolce, 4 pence, un caffè e maritozzo, 4 pence, prestito Steven Dedalus restituito, 1 sterlina e 7 scellini. Saldo 16 scellini e 6 pence. Totale 2 sterline, 19 scellini, 3 pence. Avere avanzo di cassa 4 scellini, 9 pence. Commissione ricevuta dal Freeman's Journal 1 sterlina, 7 scellini, 6 pence. Prestito Steven Dedalus 1 sterlina, 7 scellini. Totale 2 sterline, 19 scellini e 3 pence. Continuò il processo di svestizione. Sensibile a un dolore benigno, ma persistente, alle piante dei piedi, stese il piede da una parte e osservò le pieghe, le protuberanze e i punti salienti causati dalla pressione del piede a causa del ripetuto camminare in parecchie direzioni diverse, indi chinandosi disfece i nodi delle stringhe, sciolse e allentò le stringhe. Si levò ciascuna delle 2 scarpe per la seconda volta, staccò la calza destra parzialmente inumidita, attraverso la cui parte anteriore l'unghia del suo alluce aveva commesso una nuova effrazione, alzò il piede destro e, avendo sganciato una giarrettiera elastica violetta, si levò la calza destra, posò il piede destro scoperto sul margine del sedile della sedia, frugò e lacerò delicatamente la parte protuberante della grossa unghia. Si portò la parte lacerata alle narici e inalò l'odore del vivo. Indi gettò via soddisfatto il frammento ungueo lacerato. Perché soddisfatto? Perché l'odore inalato corrispondeva ad altri odori inalati di altri frammenti unguei, frugati e lacerati dal signorino Bloom, allievo della scuola privata di Mrs. Ellis, pazientemente, ogni notte, nell'atto d'una breve genuflessione e preghiera notturna e meditazione ambiziosa.